Non è per un vezzo letterario, per una captatio benevolentiae, che devo mettere subito le mani avanti e così, enunciare il carattere così molto sperimentale, provvisorio delle cose che dirò. Perché intanto il tema, ho dato al tema una specificazione, ed è il martirio in America Latina, che è l'unico del quale, sul quale posso dire qualcosa, su cui ho raccolto dei dati e ho fatto delle riflessioni. Secondo, appunto, si tratta di dati da una parte ancora incerti, ecco, su cui non c'è ancora una vera elaborazione storiografica, e dall'altra purtroppo così contemporanei che sono addirittura anche presumibilmente futuri. Cioè siamo di fronte a un fenomeno in corso, purtroppo, no? Il martirio in America Latina. Un fenomeno su cui, che non possiamo considerare chiuso e tale da poter essere preso in mano così con quella, diciamo, pacatezza, serenità scientifica che normalmente si fa, che normalmente diciamo, caratterizza lo storico di professione. Comunque, non mi sento neanche di dire che do una testimonianza, perché in questo contesto in cui testimonianza è martirio, diventerebbe questo una espressione di poco buon gusto e di narcisismo. Così sono alcune, l'offerta di alcuni dati più minimi e poi di alcune riflessioni sul significato e sulla forse novità che il martirio, il modo di guardare il martirio, presenta oggi nell'America Latina. Ecco, come premessa, dopo questa semplicemente premessa molto strumentale, vorrei farne invece un'altra più consistente. E cioè richiamare questa osservazione che circola, a volte con malafede, a volte invece in assoluta buona fede, circola l'immagine, un'immagine o un accoppiamento di immagini tra teologia o chiesa della liberazione da una parte e prete guerrigliero dall'altra. Immagine, dicevo, che a volte viene contrabbandata così con in malafede, come una famosa copertina dei 30 giorni di 2 anni fa, dove c'era un prete armato da capo a fondo, no? Con la faccia nascosta, che stava celebrando su un altare di campo. Ecco, e sotto c'era appunto teologia della liberazione. È vera teologia, e dentro il numero conteneva un'anticipazione di quella che sarebbe poi stata la instruzio sulla teologia della liberazione. Ecco. Altre volte, invece, come mi è capitato di vedere recentemente, c'è così un accenno, perché questo senz'altro in buona fede, in un dépliant, Sergio Quinzio diceva, ecco, tra le varie figure, immagini che oggi corrono di cristianesimo, di cattolicesimo, e ne enumerava alcune, tra cui, ecco, c'era quella del prete guerrigliero come caratteristico della teologia della liberazione. Ecco, credo che noi dobbiamo subito dire, senza la minima esitazione, che non è che non esistano più preti guerriglieri in assoluto, ma che è del tutto mistificatorio esibire così come immagine esemplare, emblematica della teologia o della Chiesa della Liberazione in America Latina, il prete guerrigliero. Quando 3 anni fa passai alcuni mesi in America Latina, mia moglie mi disse: portami a casa un prete guerrigliero. Sì, perché nel 68, no, lei nel 68 era giovane, era proprio della generazione ruggente, e allora il prete guerrigliero, no? E sono tornato dicendo: guarda, non lo trovate, è una fauna in estinzione. Purtroppo invece non è in estinzione quell'altra, l'altra figura, ecco, la figura del prete o del vescovo, del catechista o del militante cristiano, cattolico in particolare, che non ha le armi addosso per sparare agli altri, ma che invece cade sotto i colpi delle armi altrui. Ecco, la figura del martire. La teologia della liberazione si riconosce oggi soprattutto, no, in questa figura del martire. La seconda stagione della teologia della liberazione, dopo una prima in cui forse, ecco, c'è stato, dico forse, anche un pizzico, un eccesso di comprensione, cosa che d'altronde avveniva anche tra di noi, nei confronti della guerriglia, eccetera, nella seconda stagione la teologia della liberazione è soprattutto spiritualità della liberazione, ed è spiritualità sotto il segno del mistero pasquale. Ecco, la spiritualità, direi, di che cosa vuol dire vivere dentro situazioni di morte e di che cosa vuol dire, ecco, morire per generare la vita. Allora è una spiritualità di cui il martirio rappresenta da una parte una possibilità, una evenienza, un qualcosa non da desiderare, vedremo, ma a cui prepararsi. Sono addirittura dei testi di preparazione al martirio, come un tempo si faceva la preparazione alla buona morte, a cui un'evenienza da evitare, ma a cui prepararsi, e al tempo stesso, ecco, qualcosa che rappresenta come la punta alta, la punta emergente, se vogliamo l'iceberg, di quello che è più tipico di tutta la spiritualità della Chiesa e della teologia della liberazione. Allora, la mia presentazione attraverso due momenti, di cui il primo, più breve, riguarda un po' il dato, e il secondo una ricerca del senso. Dicevo che non ci sono cifre sicure, garantite, anche perché il fenomeno non è chiuso. Una cosa è certa, che si tratta non di casi isolati, sporadici, si tratta invece di un fenomeno che può essere considerato di massa, si tratta di cifre rilevanti che appartengono all'ordine delle migliaia. Si tratta poi ancora di un fenomeno che non ha avuto un'esplosione così improvvisa o momentanea, ma che invece si estende oramai su un arco di tempo che va anche oltre i 15 anni, dall'inizio degli anni 70. Si tratta poi ancora di un fenomeno che non è limitato a, come la Roma, come la persecuzione di Nerone, no, alla Roma, ecco. Ma semmai invece quando si estese un po' a tutto l'impero romano, qui si tratta di un fenomeno che si estende un po' a tutto l'impero, e non diciamo qual è il soggetto di questo impero. L'impero si estende, cioè, un po' in tutta l'America Latina, cioè sia centrale che meridionale, con particolari punte di acutezza, diciamo, numerica, in Guatemala e Salvador per l'America centrale, e credo in Brasile e Argentina per l'America meridionale. Si tratta ancora, dicevo, ecco, di una del martirio come forma emergente, ma di una spiritualità che è tutta improntata al mistero pasquale, quindi al nesso morte e risurrezione. E qui bisogna anche dire di un martirio come fenomeno che è l'iceberg, la punta emergente anche di un altro fenomeno, cioè di un martirio in senso analogico più generale, che è quello della situazione di una vita che si trova a guardare in faccia la morte per una serie di, ecco, per quell'insieme di condizioni di esistenza minimale, no? Di esistenza dove la morte è una possibilità con cui fare i conti, per sottoalimentazione, per malattie, per incidenti stradali, eccetera, eccetera. Secondo, in cui la morte è una evenienza con cui fare i conti, perché al minimo accenno, ecco, di una coscienza che cerca di lottare contro le proprie condizioni di morte, ecco, il minimo accenno scatena dall'altra parte invece la repressione. Quindi diciamo una morte, quella morte che è la miseria e quella morte che è la repressione, fino alla morte fisica, alla soppressione fisica, ecco, e che riguarda un po' tutto il popolo, tutti i popoli dell'America Latina, salvo qualche eccezione. Ecco, questa è un po' la situazione di base, ecco, credo, su cui bisogna vedere, allora, non come fenomeno strano, ma come, di nuovo, l'emergenza, il martirio di alcuni che sono numericamente tanti, no? Ma che a loro volta sono come i rappresentanti, i vicari, no? Di questa diffusione, disseminazione di morte che si coestende un po' a tutto il subcontinente latinoamericano. Teniamo presente anche che quando parliamo di martiri, non ci riferiamo esclusivamente a coloro che poi finiscono morti, in un senso un po' più ampio, ma sempre molto preciso, di tutti coloro che per il loro impegno, di cui ora parleremo, l'impegno cristiano, la modalità del loro impegno cristiano, vengono sequestrati, sottoposti a interrogatori, vengono messi in carcere, scompaiono, fenomeno dei desaparecidos, che non è soltanto argentino, attualmente, ultimamente sembra anche peruviano, per dire un altro caso, era iniziato in Guatemala. Le violenze sessuali nei confronti di quasi tutte, in Salvador pare fosse un caso, pare fosse una legge, no? La violenza sessuale sulle donne sequestrate magari momentaneamente per il loro impegno di giustizia. Le torture, ecco. E quello che le torture lasciano dentro, fino alla distruzione della personalità, la distruzione psicologica. Ecco. Allora credo che forse più ancora della morte in qualche caso c'è questo martirio della paura. Il caso più noto è quello del Fray Tito, il domenicano, che qualche anno fa, oramai diversi anni fa, nella seconda metà degli anni 70, si suicidò in Francia, dove aveva cercato un po' di pace, ecco. Suicidò nel suo convento perché non riusciva più a reggere, ecco, i mostri che portava dentro, no? I mostri dei carnefici che l'avevano torturato, ecco, e che, con cui aveva cercato inutilmente di convivere una volta che l'avevano lasciato libero. Ecco. Evidentemente quando una persona cerca scampo nella morte, qui abbiamo, vuol dire che il martirio che si porta dentro è più martirio che non la morte. Ecco, allora credo che oggi, no, non credo, no, è un dato di fatto, siamo al dato appunto, no? Oggi l'America Latina ha un suo vero e proprio martirologio, è uscito un libretto ed è una prima raccolta, e ne stanno preparando un altro più completo, ecco, Il sangue dei giusti, ed è proprio un martirologio, cioè per ogni giorno dell'anno c'è il martire o i martiri del giorno. Questo è di Sangue dei giusti e di Cittadella, sì. Il martirologio dell'America Latina è probabilmente è questo che ci dà ragione di guardare all'America Latina come alla comunità primogenita della Chiesa di domani, di un domani vicinissimo. Si è già fatta da diverse parti l'osservazione prognostica in base alla quale tra forse 20 o 30 anni l'America Latina sarà il continente cattolico, ecco, più consistente. Quindi una specie di punto di ormai diciamo il primato, no, della demografico della cattolicità passerà all'America Latina. Ecco, a me è venuto di pensare che c'è un altro primato che l'America Latina si sta, diciamo così, conquistando, ed è appunto il primato dei martiri, è quello che uno di questi martiri, il gesuita Luis Espinal, formulava in questo modo: morire in un popolo dà più diritto di cittadinanza che nascere in un popolo. Ecco, allora, morire dentro il popolo cristiano dà più diritto, diremmo, di primogenitura che non nascere e che non essere i più numerosi dentro quel popolo cristiano. Ecco, non per il numero dei suoi nati, ma per il numero dei suoi morti. Verosimilmente l'America Latina diventerà il continente cattolico per eccellenza. Secondo, ecco, quello che io ho fatto è soprattutto cercare di individuare il significato, il modo in cui il martirio viene vissuto, quindi diciamo un po' l'immagine o la tipologia di martirio che sembra prevalere oggi in America Latina, e l'ho fatto con un gioco di contrasti, un po' come stamattina benvenuto tra sacrificio e martiria, no, con un gioco di contrasti, con tutto il pericolo che so benissimo comporta sempre il gioco dei contrasti. Cioè confrontando su quattro punti il tipo di martirio che oggi viene vissuto in America Latina con il martirio classico. E ho coscienza, almeno in parte, della genericità di questo classico, martirio classico. Cioè ho coscienza del limite dell'uso di ogni ideal typus weberiano, cioè di uno schema, diciamo, a cui vengono ricondotti, ecco, i dati concreti, che in realtà non sono mai la pura realizzazione di quello schema. Qui a maggior ragione quando addirittura questo schema non solo pretende di unificare molti dati simultanei, non è solo quindi un ideal typus sincronico, ma addirittura anche diacronico, cioè parlare di martirio classico vuol dire trovare una immagine unitaria nel martirio dei primi tempi a oggi. Tuttavia, per quanto io non particolarmente adatto a studi storici, eccetera, insomma, per quanto io ricordi un po' dei miei studi, un po' della mia formazione, no, teologica e spirituale, giovanile, e poi per quanto abbia potuto riverificare su voci di dizionario, quindi in maniera molto banale, no, ecco, mi pare, la cosa può essere contestata, ecco, mi pare che comunque, ecco, soprattutto in quello che è passato, si possa parlare di un'immagine classica di martirio, soprattutto come essa è passata poi nella coscienza, non diciamo nella coscienza generale dei cristiani, ma almeno dei cristiani che coltivano la spiritualità. Ecco, e a questa allora immagine mi riferisco quando parlo di martirio classico. Bene. Allora, una prima contrapposizione, differenza, ecco, contrapposizione. La prima differenza che in apparenza resta ancora esteriore, ma vedremo che poi in realtà pesca nel fondo, è quella tra martiri di chi o per causa o sotto chi. Il martire classico, salvo eccezioni che stamattina abbiamo sentito ricordare nel caso dei donatisti, eccetera, ma il martire classico mi pare che è quasi sempre vittima di un potere altro, religiosamente altro, rispetto al martire stesso, e del potere pagano a Roma, di poteri, qui piccoli poteri pagani nel caso di missionari, martiri, di un potere cristiano ma non cattolico, il caso di Tommaso Moro, eccetera, ecco, o addirittura oggi, no, nei paesi comunisti, no, di poteri atei. Ecco, l'elemento nuovo nell'America Latina è che senza eccezioni questi cristiani cattolici, in grandissima maggioranza in America Latina, muoiono sotto i colpi di poteri ufficialmente cristiani cattolici. E la cosa a prima vista sembra molto strana, perché quale differenza ci può essere, no, dentro non solo una stessa religione o fede, no, come il cristianesimo, ma addirittura dentro una stessa confessione? Quali ulteriori differenze ci possono essere se non delle scuole teologiche, scuole di spiritualità diverse, che rappresentano un sano, arricchente pluralismo? È possibile ammazzare l'altro, che è altro solo in nome, in quanto, ecco, è altro dentro un sano pluralismo? Ecco, non è folle? No, non è folle. Non è folle perché in realtà, ecco, la posta in gioco non è quella di una differenziazione teologico-spirituale dentro la stessa confessione. La posta in gioco non è quella di un conflitto di interpretazioni intraconfessionali o al più interconfessionali, o mettiamo pure al più intraculturali, non è quello di un conflitto di interpretazioni, quale Dio, quale Gesù Cristo, quale Chiesa, quelle belle cose, il quale di cui si riempiono oggi spesso i libri, no? Bei titoli, quale socialismo, no? Così. Reinterpretare tutto dalle fondamenta, giusto. Ma evidentemente appunto qui la posta in gioco non è soltanto, no, ecco, non si gioca a livello teorico, a livello di una ermeneutica, di linguaggio, eccetera, qui si gioca proprio lì nei termini, direi, più elementari. E i termini qui sono i termini di questo conflitto ermeneutico elementare, basilare, i termini quali vengono prima di tutto enunciati proprio da coloro che poi finiscono martiri. Mi spiego, no? Sono i termini, cioè che costoro, cioè i cristiani, i cattolici in America Latina, questi cattolici impegnati sulla linea della liberazione, ecco, denunciano come idolo, quindi come contro Dio in assoluto, quel tipo di valori su cui invece sta, ecco, consiste il potere, cioè lo Stato, ciò che conta, ecco, nei loro paesi. Cioè qui la lotta non è dunque tra due interpretazioni, tomisti e molinisti, che già insomma ci sapevano fare quanto ad aggressività, no, così. Ecco. No, non è questo, no. Qui la lotta, i termini reali, no? Cioè quali vengono formulati da coloro che sono dentro l'impegno della liberazione, i termini reali sono questi, no? Non c'è compatibilità tra questo che tutti e due chiamiamo Dio, tra un Dio che copre un insieme di pratiche, un insieme di modi di esistenza, e il Dio nel quale noi crediamo. Quel Dio in realtà è un idolo. Ecco, allora il cristiano che si muove nell'orbita o sulla linea della liberazione diventa profeta. Profeta. Cioè colui che denuncia come falso Dio ciò che invece viene messo sotto l'ombrello, il cappello di Dio. Come falso Dio. Falso perché non è Dio, ma falso Dio perché, ecco, assurge a un valore tale che può essere solo il valore di Dio, cioè assurge a valore ultimo a cui tutto il resto viene finalizzato e, se è il caso, sacrificato. Da questo punto di vista, ecco, vorrei fare un piccolo esempio, così, senza svilupparlo, no? E cioè come nel caso più noto di martire dell'America Latina, il Monsignor Oscar Romero, si siano, nella sua denuncia profetica, nella sua denuncia dell'idolo, si siano proprio, direi, riverificati quelli che erano i tratti caratteristici della profezia dell'Antico Testamento, soprattutto di profeti come Isaia o Amos, no? E cioè la denuncia di quattro, io ne ho trovati così rapidamente quattro, ma potrebbero mettere altri, no? La denuncia di quattro tratti che appunto sono tipici dei grandi profeti dell'Antico Testamento e che si ritrovano facilmente leggendo i discorsi di Monsignor Romero. Anzitutto la denuncia della idolatria del danaro, ricordiamo soprattutto da una parte un Amos, no? E dall'altra parte i molti discorsi in cui Romero si scaglia contro le oligarchie, contro il potere economico, e parla proprio di idolatria del denaro. Secondo, la denuncia contro la autosufficienza politico-militare, pensiamo soprattutto a Isaia qui, da una parte, e dall'altra la denuncia contro quella forma di statolatria, potremmo dire, che era oggi un po' di meno, per fortuna negli ultimissimi anni questo va un po' attenuandosi, ma quello che era l'ideologia della sicurezza nazionale. Cioè, in nome della difesa dello Stato, da che cosa? Dal comunismo, è tutto permesso, vengono anche sospese le leggi, vengono creati leggi o situazioni, vengono dichiarate situazioni di eccezione, di emergenza, eccetera, che di fatto vogliono dire appunto una suspensio legis, e quindi la stura all'arbitrio l'arbitrio del potere e all'arbitrio di squadre, di morte, eccetera, su cui il potere chiude uno o tutti e due gli occhi. Allora anche su questo Monsignor Romero ha avuto ripetute denunce, e qui mi sembra il caso di leggere almeno quella che probabilmente è stata l'ultima goccia sì, che ha determinato la sua uccisione. Vorrei lanciare un appello speciale agli uomini dell'esercito e in concreto alle basi della Guardia Nazionale, della Polizia, delle caserme. Fratelli, siete del nostro stesso popolo. Voi uccidete i vostri fratelli contadini, e di fronte a un ordine di uccidere dato da un uomo deve prevalere la legge di Dio, che dice non uccidere. Nessun soldato è obbligato a obbedire a un ordine contrario alla legge di Dio. Vi supplico, vi prego, vi comando in nome di Dio, cessi la repressione. 23 marzo 80. Il 24 marzo Monsignor Romero veniva colpito. Il terzo tratto, tipico dei profeti, ricordate, è la denuncia della corruzione dei tribunali, e qui su tutti Amos, ma della corruzione degli organi di giustizia, e ugualmente questa denuncia viene ripetuta diverse volte da Monsignor Romero, adesso non abbiamo tempo di leggere i testi. Un quarto elemento, la denuncia dei falsi profeti, che in Romero diventa la ripetuta denuncia delle falsificazioni dei mezzi di comunicazione, dei mass media, chiamati spesso gente dalla penna pagata, dalla lingua venduta, manipolatori, distorsioni della verità, eccetera. Ecco, allora il profeta denuncia l'idolo, quindi smaschera il falso Dio, no? L'assolutizzazione di valori economici e politico-militari, no? Ecco, lo smaschera così, con l'arma che ha a disposizione, ed è la parola della verità, oppure è a volte qualcosa di meno, è semplicemente il rilevare, come la macchina fotografica di Marianella Garcia, che andava a fotografare le vittime, ecco, coloro che erano stati colpiti, torturati, ecco, per testimoniare attraverso gli organi di stampa, soprattutto stranieri. Ecco, allora questa parola o queste immagini che testimoniano contro, ecco, questa denuncia profetica, vengono colpite con le armi invece proprie del potere, di chi viene colpito dalla parola o dalla denuncia, no? E cioè con la violenza brutta. Ecco, allora la conclusione del primo punto, no? Siamo partiti, in realtà, ecco, questo sembrava una certa opposizione, una certa differenza, no? Tra il martirio classico e il martirio in America Latina, ma qui scavando sotto in realtà troviamo ripetuto qui, abbiamo visto nel caso della con l'analogia dei profeti, ma certamente potremmo pensare anche all'analogia dei primi cristiani e della loro denuncia di idolatria nei confronti dello Stato pagano. Quindi qui, guardando in fondo, ecco, più che una divergenza, è una ripetersi sotto nuove spoglie, no? Ripetersi sotto nuove apparenze, ecco, un ripetersi di una struttura oppositiva classica in qualche modo. Secondo, bene, come abbiamo risentito anche questa mattina, il martire classico moriva per la fede, intesa proprio come professio fidei, per la ortodossia. Oppure, in qualche caso, oppure questa mattina ho trovato qualche accenno, per alcuni punti di morale, la difesa della verginità, ricordiamo ancora vicinissima a noi Maria Goretti, no? Ecco, dunque la morale cristiana intesa quindi come derivazione dalla fede, soprattutto nel suo versante negativo, cioè evitare il peccato. Ecco, il martire in America Latina muore per testimoniare, o meglio, per testimoniare, muore perché opera per la promozione della giustizia. Ecco, questa è, non dirò appunto, una discriminante assoluta, ma certo è una forte divaricazione di accento. Romero, no, la Chiesa viene perseguitata perché predica la giustizia. Ancora, perché non vuole essere indifferente né complice di situazioni di peccato e di violenza strutturale che esistono nel nostro paese, eccetera. E questo elemento di almeno relativa novità, direi che inscrive il martirio in America Latina in continuità con il martirio anche dei martiri, di martiri non cristiani, cioè con il martirio di tutti coloro che lottano per la giustizia. Ricordate quel volume, non so, Lettere dei martiri della Resistenza, no? Ecco. Cioè dà allora al martirio cristiano un carattere di universalità, che evidentemente allora non è compatibile, almeno con alcuni discorsi sentiti questa mattina, a proposito di Tertulliano o di altri, no? Dove al martirio è essenziale, appunto come precondizione, no? Di iscriversi dentro la confessio fidei, la ortodossia. Invece abbiamo, ripeto, un martirio che è in continuità con il più ampio martirio di tutti coloro che sono morti per la giustizia. Al tempo stesso, però, questo non cancella. Non cancella quello che, con parola usuale, possiamo chiamiamolo, no, lo specifico cristiano. Non cancella perché quelli che chiamiamo appunto i martiri, nel senso stretto dell'America Latina, sono coloro che hanno operato per la giustizia e sono morti per la giustizia, ma ispirati dalla loro fede. In cui l'amore e la pratica della giustizia fino al pericolo e poi all'esecuzione della morte o della tortura, del carcere, eccetera, no, è nata, è stata alimentata dalla lettura del Vangelo, è stata alimentata dalla predicazione, dalla catechesi, ecco, e tutto questo in maniera molto esplicita. Per cui questo martirio per la giustizia resta un martirio per e dentro la fede. Ecco, solo che non è più, direi, volendo precisare, ecco, non è più motivato allora dalla fede intesa come retta dottrina, retta formulazione oggettiva della dottrina, l'ortodossia, ma invece da una retta obbligatoria pratica, cosiddetta ortoprassi. Il martirio diventa allora, ecco, testimonianza alla prassi giusta, alla verità della prassi, alla verità della esistenza in quanto agente. E questo, direi, diventa testimonianza in due sensi. Anzitutto diventa la testimonianza della verità soggettiva del martire. Cioè uno che arriva a affrontare la morte o comunque pene, sofferenze fisiche, psichiche, eccetera, gravi, indubbiamente testimonia appunto la verità esistenziale del suo lavorare per la giustizia. Testimonia che tutto questo non è facile utopismo che poi cadrà nel riflusso quando girano le bandiventi, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Non hanno avuto il riflusso in America Latina, ma pensate voi, hanno avuto il riflusso. Ecco, dunque la verità soggettiva viene testimoniata dal martirio, ma credo che soprattutto, no, il martirio è testimonianza alla verità oggettiva di ciò per cui il martire vive e muore, e cioè che quella giustizia non è soltanto una sua pur generosa e sincera utopia, ma quella giustizia è davvero, ha una consistenza ontologica. Cioè quella giustizia per la quale il martire vive e muore è l'ordine di Dio nel mondo, è il farsi della creazione, ecco, contro l'anticreazione, contro il peccato. Credo che sia questo l'aspetto, su cui adesso io non mi fermo, ma che forse meriterebbe di essere scavato, no? Perché allora non è più soltanto dunque la verità intesa come sincerità, della vita e della morte, della vita, dell'impegno di giustizia di colui che vi si è abbandonato, no? Ma della verità oggettiva, ontologica di quel, chiamiamolo, valore per il quale egli si è dato, no? Quindi la giustizia non è un ideale che scaturisce da un cuore generoso, eccetera, eccetera, no, non è una utopia, ma la giustizia è invece l'ordine stesso di Dio che si vuol fare nel mondo. E credo sia questa la ragione per cui, al di là dell'ammirazione verso i loro martiri, verso i suoi martiri, il popolo in America Latina li considera proprio i nuovi santi, intendendo dunque la santità sia come la loro, diciamo, prestanza, no? La loro virtù, come dall'altra parte di ciò che la santità dice in quanto testimonianza alla verità di Dio. Uno dei tratti più salienti delle nostre comunità è forse la convinzione che i cristiani martiri del popolo sono i nuovi santi. Essi sono vivi e presenti. La loro memoria è una sfida. Il loro ricordo crea speranza, suscita forza spirituale. Terzo elemento. Il martirio classico avveniva, mi sembra questo sì, difficilmente negabile, nell'orizzonte dell'amore all'altra vita. Siamo dentro un orizzonte dualistico, non necessariamente di un dualismo spinto, la carne è peccato, il mondo è peccato, carcere, eccetera, anche di quel dualismo più blando che comunque vede in questa vita, la vita fugace, la vita non vera, ecco, no? E invece rimanda la vita vera all'oltremorte. Questa forma di martirio, questa motivazione nell'affrontare il martirio ha una sua espressione esemplare già nel tardo giudaismo, pensiamo appunto al martirio dei fratelli Maccabei, no? Contrapposizione tra questa e l'altra vita unicamente vera. Allora la morte già in sé, non solo il martirio, ma anche la morte in sé, in questa prospettiva già è il momento in cui appunto si dissolve l'apparenza per lasciare spazio alla rivelazione della verità. Il martirio allora è una morte al quadrato, ma appunto in questo senso positivo. È una morte al quadrato perché oltre a essere il passaggio dall'apparenza alla verità, è anche un passaggio fatto proprio per amore positivo alla verità. Il dare la propria vita per amore all'altra vita e per amore al Dio dell'altra vita, ecco. No, ripeto, c'è una specie di doppiaggio impositivo del significato della morte nel martirio. Di qui allora il martirio diventa elemento supremo di desiderio spirituale. L'eros spirituale ha come il suo oggetto più alto nel martirio. Certo, non è che uno possa automartirizzarsi, non è che uno forse anche possa proprio provocare già quelle problematiche già di tipo più etico di cui abbiamo fatto cenno questa mattina, ma considerare il martirio come ideale, pur senza provocarlo, però desiderarlo e quando se ne presenta l'opportunità non lasciarsela scappare. Ecco, e questo mi sembra caratteristico, no? di questo iscriversi del martirio dentro questa visione, detto, lato senso dualista. Da questo punto di vista il testo appunto, esemplare è quello a cui richiamava questa mattina più volte Roger nella Sant'Ignazio d'Antiochia, l'avevo anche trascritto, ma comunque lo conosciamo tutti, no? Quella grande, la preghiera ai cristiani di Roma di non interporsi tra lui e il martirio come la possibilità di unirsi e di unirsi con un'intensità unica a Gesù Cristo. Ecco, ora l'aspetto paradossale del martirio in America Latina è che si iscrive dentro l'amore a questa vita. Questo l'abbiamo già detto implicitamente dicendo che è un martirio in nome della giustizia. La giustizia è la operosità, è la pratica per la difesa di questa vita. Ma questo è anche tematizzato esplicitamente, penso soprattutto a Gutierrez, ma più ancora a Sobrino. No? È il Dios della vita. No? Dio è il Dio della vita, ecco, non della vita vera, di cui la vita terrestre sarebbe solo dimensione di apparenza, ma Dio è il Dio della vita a tutti i suoi livelli, e qui penso opportuno leggere, sia pure rapidamente, di nuovo un testo di Monsignor Romero. Crediamo in Gesù che è venuto a portare la vita in pienezza, crediamo nel Dio vivente che dà la vita agli uomini e crede che gli uomini vivono in verità. Punto. Queste radicali verità della fede, tra parentesi, come dire, su cui tutti siamo d'accordo, no? Diventano realmente verità e verità radicali quando la Chiesa si inserisce in mezzo alla vita e alla morte del suo popolo. Così alla Chiesa, come a ogni uomo, si presenta l'opzione più fondamentale della sua fede, essere in favore della vita o della morte. Con grande chiarezza vediamo che in questo non è possibile restare neutrali. Osserviamo la vita dei salvadoregni o siamo complici della loro morte. Qui si dà la mediazione storica di quanto c'è di più profondo nella fede. O crediamo in un Dio di vita o serviremo gli idoli della morte. Dicevo, no, che poi alcuni teologi, in particolare Pierre e Sobrino, hanno approfondito, hanno tematizzato, no, questo motivo dell'amore alla vita come elemento essenziale, fondamentale, elemento elementare, se vogliamo dire, no, della spiritualità cristiana. Allora, come è possibile che qui dentro acquisti senso il martirio, che è appunto la perdita di questa vita, l'amore alla quale è il contesto e in qualche modo il fondamento, comunque elemento centrale della spiritualità che vi si delinea? Beh, intanto dirò che mi pare che è un po' lo stesso problema che si pone a proposito di Bonhoeffer, che nell'esperienza del carcere scopre, direi simultaneamente, la terrestrità da una parte e dall'altra la presenza di Dio nel crocifisso, no? Come uomo per gli altri. La simultaneità di queste due cose, è questa probabilmente la dimensione più originale di Bonhoeffer. Ecco. E mi pare anche questo, appunto, l'aspetto certamente più paradossale, ma anche forse più fecondo della teologia della spiritualità della liberazione e del suo rapporto con il martirio. Qui viene allora, qui la morte, la miseria, eccetera, non vengono visti come elementi su cui si può facilmente transigere perché riguardano la vita nel suo momento, nel suo eone di apparenza. Qui invece miseria, fame, malattia, eccetera, sono davvero avvertiti e vissuti e tematizzati come espressione della mancata realizzazione del disegno di Dio, dell'ordine divino nel mondo. Quindi come peccato, come oggettivazione del peccato. Ecco, la morte allora è il punto d'arrivo di tutto questo. Morte in senso puntuale. Il martirio, anche qui, allora, ha una duplicazione. Perché a quella che è già la negatività del patire, dell'aver fame, della malattia e del morire per queste cause, c'è la negatività della violenza direttamente perpetrata. No. Quindi il martirio non è desiderabile, ma il martirio è doppiamente negativo. Ecco, allora ci sono dei testi anche appunto, che rifiutano esplicitamente l'esaltazione del martirio. Tutta l'ammirazione e il rispetto per il martirio non ci possono far dimenticare la crudeltà che avvolge questo fatto. Il martirio è qualcosa che si trova, ma che non si cerca. Gutierrez. Più ancora, il popolo non ha la vocazione al martirio. Quando il popolo cade in combattimento, lo fa con semplicità. Non bisogna dare la vita morendo, ma lavorando. Via gli slogan che inneggiano alla morte. Se un giorno dovranno dare la vita, lo faranno con la semplicità di colui che svolge un compito in più, senza gesti melodrammatici. Questo è un testo di padre Luis Espinal, che venne trovato sul suo tavolo, era la bozza, la brutta, di un articoletto che aveva preparato appunto per un giornale che dirigeva, e venne trovato sul suo tavolo il giorno stesso, in cui al mattino venne trovato il suo corpo, torturato e poi finito con colpi di pistola. Ecco, portano, come colui che svolge un compito in più. Ecco, qui certo ci potrebbero fare molte considerazioni, credo più o meno di avere, sì, no? Molte considerazioni, dico, sul come allora è possibile coniugare, ecco, mettere assieme questi due elementi, no? Di un martirio che non è un ideale, che non è desiderato, che non è scelto e che pure quando arriva è accettato, assunto. Ecco. Quando arriva la negatività di questo martirio, la sua dura necessità, si trasforma in quell'altra necessità del Dei, della volontà di Dio. E allora appunto viene assunto. Allora non è desiderio, non è l'eros spirituale, ma è l'obbedienza radicale alla redenzione. Qui avevo anche preparato una, ma lasciamo stare. Quarto punto, ecco, il frutto, la fecondità del martirio qual è? Senz'altro un po' esagerando, ma almeno come lo ricordo io anche, che ci se ne parlava da giovani, eccetera, quando si pensava al martirio si puntava soprattutto questo al martirio come espressione suprema della salvezza, della santità, della perfezione personale, no? Il martirio vertice di amore, e quindi realizzazione suprema della personalità cristiana. E questo elemento non è presente oggi nella spiritualità martiriale dell'America Latina, e invece è, credo, l'elemento senz'altro, senza confronti, quasi esclusivo, presente quasi esclusivo, è quello della fecondità. Il martire è fecondo perché produce il mondo nuovo, o l'uomo nuovo. L'ombre nuovo e il mondo nuovo. E anche qui, proprio un ultimo minuto, mi sembra opportuno leggere l'intervista che Monsignor Romero rilasciò un mese e mezzo prima della morte, quando disse: il martirio è una grazia di Dio che non credo di meritare, ma se Dio accetta il sacrificio della mia vita, che il mio sangue sia seme di libertà e segno che la speranza sarà presto una realtà. La mia morte, se è accettata da Dio, sia per la liberazione del mio popolo e come una testimonianza di speranza nel futuro. Dica pure, diceva l'intervistatore, che se arrivano ad ammazzarmi, perdono e benedico in partenza a quelli che lo faranno. Si convincano che perdono il loro tempo. Morirà un vescovo, ma la Chiesa di Dio, che è il popolo, non morirà mai. E questo motivo, così colto sulle labbra di Monsignor Romero, è poi un leitmotiv, e con questo concludo, dei canti, così canti religiosi che la gente canta, di cui adesso leggo alcuni testi. Signore, il tuo popolo è frumento da macinare. Se la pietra è dura, più forte è il calore che uniti custodiamo, e saremo pane che alimenterà la nostra libertà. Un altro canto. Con la matassa di un filo di sangue andiamo tessendo un mondo senza fame. Questo è il nostro corpo per un uomo nuovo, questo è il nostro sangue per un popolo nuovo. Un altro canto. Dai poveri della terra, dalle Ande, trasaliscono Cristi che lottano e soffrono, figli benedetti del Signore. Il loro sangue, caldo e fecondo, redime tutta la terra. Poveri e umili della terra, voi salverete il mondo. Frumento piccolo e fecondo, carne del Cristo vivente. Ecco, allora in questa spiritualità del martirio, a me pare che si va proprio profilando anche una diversa spiritualità, direi proprio complessiva, sia spiritualità generale del popolo cristiano, come poi anche specificamente una spiritualità dei voti religiosi, no? Ci sono dei testi di professione religiosa o di testi, diciamo, di professione nella consacrazione sacerdotale, proprio plasmati su questo, no? Spiritualità che coniuga allora, ecco, la dimensione di rinuncia, eccetera, che c'è in ogni vita religiosa, con la dimensione di amore alla vita. E qui mi pare la strada da fare, oltre che il discorso è molto lunga. Grazie. Se Questa mattina abbiamo scoperto soprattutto aree da esplorare maggiormente per completare un quadro, per capitoli storici e anche problematici. Il pomeriggio invece è orientato più ad aprire il discorso sui problemi nuovi che ci attendono. Io vorrei confermare un tantino quello che ha detto nell'articolo che citavo di me stesso stamattina, dove praticamente non facevo altro che approfondire il discorso ecumenico svolto in questo testo sulla testimonianza comune. Anche lì si parla di cambiamento radicale avvenuto in questi ultimi anni a proposito della testimonianza. E poi anche qui indicavo i problemi che sono stati messi in evidenza, ecco, il Vangelo nei suoi temi sociali, in favore dell'uomo, eccetera. Ecco, volevo subito anche ricordarvi altre due cose. Ecco, un'ambiguità di cui si tiene conto in quel testo è che entrando in questa nuova frontiera c'è il rischio inevitabile, dice il testo, di avere a che fare con testimonianze anche diverse, perché questa presa sulle situazioni con un giudizio investito nella storia può provocare, dice il testo, in ambienti diversi, lontani, geografici e storici, di situazioni anche prese di posizioni diverse. Una delle figure più drammatiche per le chiese in generale oggi è che potremmo avere due testimonianze eroiche anche un tantino almeno diverse tra di loro. E allora qui propone addirittura una ipotesi di sostegno reciproco di fronte a questi casi che per sé non dovrebbero esistere, dove quindi una chiesa sia capace di sentirsi solidale anche con un'altra chiesa nella quale le testimonianze possono non essere sentite della stessa tonalità, eccetera. E lì si fa leva addirittura della capacità di vicarietà, una solidarietà di intercessione per sentirsi solidali anche con quelle chiese delle quali si fa fatica a capire e a far propria la stessa presa di posizione e la testimonianza, per dire come i problemi si accumulano e sono veramente importanti. Io penso che è necessario che come teologi, membri di chiesa, ci rendiamo conto di questa realtà che spesso forse soltanto vediamo filmata davanti a noi e non approfondita. Allora, se adesso per anche qui una mezz'oretta circa, no, tu e qualcuno vuole andare via, ma è meglio che per ogni conferenza non facciamo abbreviazioni esagerate, magari un quarto d'ora, 20 minuti facciamo, di anche per svegliarci, perché ho visto qualche testa che diceva troppo di sì, molte teste erano tutte orientate da ragione, possibile che diano ragione tutti, eccetto uno. Allora, cosa hai da dire, Don Tullo? Tu stai ascoltando. Tu, padre, che fra poco andrai, padre, in America, in Brasile. Padre Menin, dei padri saveriani. Qualche suggestione? Sì. A partire dalla relazione, anche non direttamente dalla relazione. E saremo chiamati quindi a un nuovo modello di santità, anche a partire da questa lezione di martirio dell'America Latina. Un nuovo modello di santità che si avvicina a canoni più universali. Tutti dovrebbero ritenere santo, a partire anche da quanto tu dicevi, soprattutto nelle ultime due contrapposizioni rispetto alla santità classica, colui che si avvicina di più a un consenso universale intorno alla testimonianza, intorno alla santità. Cioè, e questa universalità dove si può recuperare? Cioè a livello sociale, a livello di liberazione, a livello teologico, cioè chi non so, ci dà di più, traspare di più l'immagine di Dio sopra le parti, sono domande che mi vengono così da fare. E ci risolve dunque la santità confessionale, partire da quanto diceva anche Sartori, i santi di una sola confessione possono ancora rispondere a un modello autentico di santità. Sono la realizzazione di una parte. Hai ragione a goffito così, Lui vorrebbe sentire subito padre Piacentini, che furbo! Bisognerebbe andare verso una moratoria. Anche i liturgisti ti danno ragione, Goffi ti dà ragione. No. Vediamo prima le altri che vogliono fare un intervento. Ma stamattina era emerso da Dottura il problema, che io dico con altre parole, ma sostanzialmente era questo: in che misura l'elogio del martirio provoca anche un tasso di fanatismo come rischio? Quella entrata immediata nella vita eterna a cui si accennava come premio dato ai martiri non può provocare, soprattutto in creature fragili, il desiderio appunto da creare degli oppositori perché diano il martirio come dono? La seconda domanda che mi viene dall'esposizione di Rizzi è: c'è sotto una spiritualità cristiana nuova che si va ridisegnando? Chiedo, non c'è anche forse una teologia un momentino nuova che va ridisegnandosi in questo? Che fisionomia di Dio, allora che titoli dati a Cristo rispetto a una teologia europea tradizionale? Mi viene in mente gli articoli di Ferdinando Camon sul giorno. E forse anche direi una liturgia un momentino diversa, che chiede un aggancio con l'esistenziale molto più vivo. L'odio della liturgia che si trova nei credo, per esempio, brasiliani, ma in genere latinoamericani, non è odio Christus natus est in un momento sacramentale, ma natus est mortus resurrexit, no? È un odio esistenziale molto. Per tentare di svegliarmi. Liturgia nuova. C'è per tutti, teologia nuova, spiritualità nuova, come spiritualità nuova, Goffi. Tu, padre Creci, Don Creci. Non c'è il pericolo che in questa opposizione alla idolatria, diciamo, del stare bene qui, denaro, insomma tutti questi idoli, non si sostituisce, diciamo, un altro idolo, sempre da stare bene qui. Invece Goffi può scappare subito, altro che star bene qui. Tu? No. Chi era? Padre Piacentini, poi Boff, poi tu anche. Sì, sì. Sì. Certamente che ci siano delle figure di qualità teologica, perché tutta la spiritualità cristiana, dall'aspetto dell'aspetto mundi del Medioevo, è passata oggi a una apprezzata mundi in senso pieno. E allora anche il dare la vita per creare qui qualche cosa, per ristabilire l'ordine di Dio, non è che sia avulso da una dottrina di fede, perché io, anziché mettermi quelle contrapposizioni interessantissime che fanno vedere, ma che forse non distinguono, porterei tanti distinguo, perché può darsi che tante persone uccise non siano affatto martiri, certamente non saranno martiri nostri della fede cristiana, ma molti senz'altro, perché anche se non hanno come oggetto formale della loro testimonianza la fides nel senso formale, ma esiste anche, siccome l'oggetto materiale della virtù, sia naturale sia soprannaturale, è lo stesso, può avvenire che due persone uccise nello stesso istante, nello stesso momento, forse per gli stessi motivi da parte del persecutore, e in definitiva uno sia martire cristiano, l'altro non sia martire cristiano, proprio perché vi è un aspetto formale in quella testimonianza che viene colta da uno in un modo, come testimonianza a Cristo, anche all'ordine, anche all'ordine del mondo, che è l'ordine di Dio, in quanto non è soltanto la fides nel senso pieno, nel senso formale, ma anche l'opus bonum fidei, che implica appunto la validità di una adesione al piano di Dio. Ora si tratta di vedere fino a che punto questa teologia nuova, questi fermenti nuovi che certamente ci sono, si riagganciano, cioè salvino veramente quello che è nostro, tipicamente nostro. Perché, ecco, quando lei parla del si muore per dare al mondo l'ordine, un ordine nuovo, se è l'ordine cristiano, perché è stato rotto questo ordine, o per creare un uomo nuovo, siamo, se è un uomo nuovo cristiano della fede, che è poi la Chiesa, popolo di Dio, siamo nell'ambito di un pieno martirio cristiano. Se invece si muore per ridare una novità alla società, al mondo, per creare l'uomo marxista, non siamo più nell'ambito del martirio cristiano. Ecco, allora si tratterebbe di apportare tantissimi distinguo che nelle cause di colonizzazione questi distinguo avvengono. Boff? Io vorrei riallacciarmi proprio a questo per dire, quando ci sia appunto una pluralità di testimonianze, un pluralismo di testimonianze, certamente è possibile tra i persone sostenersi reciprocamente, dando alla testimonianza un valore puramente soggettivo, ma proprio quello che dice il padre qui provoca un altro problema. È possibile non tener conto di quelle che sono le motivazioni anche dei loro contenuti oggettivi. Ora, da questo punto di vista, forse io non so se sono del tutto d'accordo con quello che il padre tende a dire, ma mi pare che sarebbe interessante vedere quali possono essere i valori, direi, non proponibili in senso genericamente, assolutisticamente universale, ma i valori universalizzabili, per cui quell'atto diventi un atto positivamente valido per le diverse testimonianze, proprio nel senso di una convergenza consensuale verso certi valori. Se il compito della teologia non potrebbe essere questo, di cercare questi valori, direi, laicamente proponibili, come però genuini. Ecco, questa è un po' la domanda. La ricerca di un'unità consensuale. Cassese e poi Don Milani. Sì, direi, chiedo se non si può ritrovare anche in questa forma di martirio proposto da Rizzi, anche l'altra faccia della profezia, delineato quattro forme di denuncia che il profeta Romeo ha incarnato. Direi anche che si potrebbe aggiungere anche quello dell'annuncio, quello che fa il profeta, no? L'annuncio forse già è stato detto, direi, mentre il martire classico annuncia la dimensione di una nuova vita, che forse dalla nostra parte, il martire dell'America Latina annuncia che questa vita già deve essere testimonianza dell'affermazione del regno di Dio, con l'armonia, con l'affermazione della giustizia, della libertà, eccetera. L'hai detto. Non era dentro nessuno. Sì. Sì. Mi interessava far vedere, sì, anche l'annuncio. Sì, certo. Don Milani? Dopo sì, Don Bocco. Mi inseriscono i due interventi di Bocco e di Piacentini, no? Anch'io avevo molto guardato il secondo punto, cioè la morte non per la fede soltanto, ma anche la morte per la promozione. Pensavo che si riallacci un pochino oggi la testimonianza della speranza, oltre che della fede, di cui parlava Sartori. Cioè oggi la testimonianza in favore del martire per l'uomo, anziché direttamente il martire per Cristo, il martire anche per l'uomo. E allora mi sembra che la liturgia già, in qualche modo, se non sbaglio, almeno quello orientale, ha già superato questo. Quando celebra i santi dell'Antico Testamento, è già un elemento. Anche a Venezia, tra l'altro, abbiamo San Mosè, la Chiesa, che devo dire San che Geremia, sì, sono tutti elementi molto importanti questi. E mi sembrerebbe allora così, che dovremmo studiare insieme, così per cogliere anzitutto gli atteggiamenti essenziali, ecco, forse i valori più comuni di questi uomini che muoiono, che va oltre la fede, ma cercare di avere gli atteggiamenti fondamentali che hanno. Secondo, forse il citato passo di Giovanni 5 stamattina del sabato superato per l'uomo si riallaccia forse un pochino a quegli altri guarigioni di Cristo, che proprio di sabato guarisce l'uomo, per indicare questo impegno per l'uomo. E in terzo luogo direi, forse ecco anche qui ci aiutano i sapienziali, quando dicono che il mondo non è semplicemente un oggetto da indagare, ma almeno per gli ultimi sapienziali il mondo è qualcosa che mi provoca, provoca ogni uomo, non è dentro, è qualcosa di come le domande al di dentro, alle quali non puoi sfuggire se non negandoti al mondo, e cioè quasi rendendolo oscuro. Forse in questa linea potrebbe essere recuperata questo impegno, non solo per la ortodossia o la morale, ma anche in bene dell'uomo. Lui insiste di più sulla importanza, lo diciamo parecchi, per questo dialogo ecumenico, dell'accettazione piena dell'Antico Testamento, nel suo realismo. No? Cercando anche gli atteggiamenti interiori di questa gente. Sì. È il discorso che dicevamo stamattina, carente, non abbiamo studiato, e non, bisognerà farlo, un prossimo convegno, proprio il rapporto ebraismo, ecco, e cristianesimo, come momento sintomatico. Don Goffi? Mi fa un po' difficoltà questa accentuazione di opposizione tra il martire classico e il martire dell'America Latina attuale. C'è senz'altro diversità, ma è solo non di ampiezza di conosciuta dal lato teologico, ma dal lato esperienziale. Mi spiego. Se si avesse la pazienza di prendere San Tommaso, dove San Tommaso, nella Summa, dove parla del martire, esplicitamente nel suo articolo dice, e proprio su questo argomento dice, è martire non solo per la ortodossia, come si dà la fede, ma anche per l'esercizio delle virtù morali. Ora, se non sono morali, io dico, l'esperienza della America Latina non fanno altro, è un'esperienza nuova di tradurre come si vive oggi queste virtù morali. Ma non perciò una diversità che si deve porre come ampiezza dottrina teologica. Non so se a questo proposito c'è il termine di Benedetto XIV che dice i contenuti della fede, dice la fides credendorum, fides agendorum, comprendendo tutta la parte della morale, delle virtù e dell'opus in fide connesse con le virtù cristiane. C'è un'ampiezza di fede riscoperta forse in molte cause, perché ci si era un po' focalizzato forse, si tratta di riallargare questo concetto della fede, questa accezione della fede. Certo. Beh, Anto. A proposito di questo continuare di un atteggiamento tradizionale, mi veniva in mente proprio per quel che il professor Rizzi diceva, ovvero per questa desiderabilità o non desiderabilità del martirio che insomma porta molto anche nella prassi dell'antichità cristiana intanto a escludere, addirittura a osteggiare sistematicamente i montanisti che invece idealizzano talmente il martirio da cercarlo, no? Ma dall'altro canto insomma a coltivare anche un'accettazione del martirio. C'è un termine tecnico in cipriano che io ricordavo anche sempre a scuola, quando proprio insegnando ai suoi fedeli l'atteggiamento da assumere, dice che il Signore ci ha insegnato a non a profiteri, ma confiteri. No? Pro vuol dire andare avanti di suo, no? Confiteri vuol dire aspettare che uno ti domandi, sei cristiano? E in quel caso confiteri. Il primo comporta una certa fierezza, direi, no? Baldanza forse, il secondo veramente si mette nella obbedienza e nell'umiltà dei santi. Mm-hmm. Ma confiteri, la differenza del termine tecnico quasi, io l'adopero quasi come un simbolo per esprimere questa differenza. Il Signore ci ha insegnato non a profiteri, ma confiteri. E in realtà quadra pieno con l'atteggiamento qui descritto ancora, se non mi sbaglio. Bene. Io vorrei così farti quest'altra domanda, ma è provocatoria per tutto anche quello che dirà padre Piacentini. Cioè studiando io l'elemento ecumenico, trovo anche questa difficoltà oggi, cioè una difficoltà che per altro verso chiede di non privilegiare come martirio quello canonizzabile, il discorso nostro, anzi voi biblisti, liturgisti stessi, insomma, riconoscete che la canonizzazione come tale è un fatto eccezionale che può avere anche i suoi limiti. Ora, la difficoltà della canonizzabilità del martirio moderno non è soltanto questo uscire di sponda dalle confessioni, ma almeno per quello che, non so in America Latina, per quello che mi si riferiva dal mondo dell'est europeo, questi martiri, anche c'era un vescovo che era stato, è questo, che ormai la tecnica di raffinatezza dei persecutori è tale che lentamente demolisce la coscienza e la libertà. Per cui se uno in anticipo già non dichiara, guardate, non credete a quello che faranno, eccetera, noi andiamo incontro verso dei martiri indecifrabili, perché verso la fine essi saranno non compotes sui, per cui a un certo punto, ecco, forse lo tratterai, ecco, basta. Allora, casomai, volevo sapere se in America Latina c'è anche questo problema. Puoi rispondere adesso se vuoi a tutte le... Ma sono sono tante cose, ma sì, mi pare che almeno ci siano alcune linee. Intanto, ecco, l'attenzione, la differenziazione, è chiaro, il mettere, se non in contrapposizione, in differenza, è uno dei procedimenti elementari per sbalzare le idee. Sì. Definire vuol dire... Sì. Distinguere da A, no, quindi è un modo così. Credo che però in questo caso sia anche qualcosa di più, e cioè non certo dire che siamo di fronte all'assolutamente nuovo. Don Goffi ha ricordato il testo di San Tommaso, che anch'io avrei voluto citare, a quello che è, direi, complessivamente, io penso che se da una parte bisogna appunto mettere sempre avere tutte le cautele nell'uso di schemi ideali che riconducono il concreto a delle, che è sempre mobile, eccetera, e cioè delle forme definite. Dall'altra però bisogna anche stare attento al pericolo ancora maggiore, e cioè di dire che tutto è uguale, perché da questo punto di vista non esistono più, per esempio, ricchi e poveri. Perché se noi cominciamo a metterli tutti in fila, da Agnelli all'ultimo pezzente, non c'è il salto qualitativo, perché si va via via per grandi sfumature, per cui ci si trova... Questo è una delle tipiche, come si dice, forme di fallacia su un altro piano, ma che richiama un po' quella di Achille e della tartaruga, no? E cioè, stiamo attenti a dire che ci sono differenze, no, se noi prendiamo, magari infiliamo una serie di testi, possiamo mostrare che c'è continuità di tutto con tutto. Ma io credo di no, invece, che non è vero, cioè che ci sono i ricchi e ci sono i poveri, anche se non c'è il punto esatto in cui si passa dall'uno all'altro. Cioè, ecco che la differenziazione tipologica, oltre che avere una sua utilità, comodità, no, di classificazione, eccetera, e coglie anche in qualche modo l'universale, non l'essenza eterna, no, ma delle costanti reali, non è una pura costruzione dell'epistemologo, no? È davvero che ci sono delle cose, cioè avere certe condizioni di vita o averne altre è diverso, così. Ecco, così, no? Tra un tipo di martirio come quello che ho descritto da una parte e quello che ho descritto in America Latina, a me pare che ci siano appunto delle differenze abbastanza rilevanti da poterle presentare, ecco, come, no, così, senza dire che non ci fossero anticipazioni, eccetera, nel passato, così. Sono solo nelle esperienze non teologiche, ma anche qui, diciamo, intanto sono nell'esperienza. Poi quando per uno sull'esperienza si mette a far teologia, a meno che si pensi appunto che c'è la teologia dietro e poi le esperienze che si inalveano dentro la teologia, che è anche vero in parte, ma c'è anche l'altra faccia, no? Che la teologia si fa riflettendo sulle esperienze, allora da questo tipo di esperienze nasce anche una teologia con una diversa, la teologia del martirio, con accentuazioni diverse, come di fatto c'è già in qualche articolo di quelli più pensosi, più anche così forse sistematici tra i teologi della liberazione. Per cui è giusto, ecco, dire qui non siamo di fronte a un novum assoluto, che sarebbe una ingenua presunzione apologetica nei confronti della teologia della liberazione, o d'altra parte un motivo per condannarla, no? Non c'è un novum assoluto, c'è una continuità, ecco, dove però le differenze sono, mi pare, non meno consistenti degli elementi di uguaglianza, quindi mi sembra giusto rilevarli. Anche perché appunto, non, se sono di, Io qui mi sono attenuto proprio al martirio, l'oggetto diretto del discorso era il martirio, non era la spiritualità dell'America Latina. La spiritualità, ho dato per scontato alcuni elementi, no, così, che invece andrebbero appositamente trattati qualora l'oggetto fosse la spiritualità, della, questo tipo di spiritualità. Sì. E questo mi pare era una linea di ecco, allora, una nuova spiritualità da cui... nuova sempre tra virgolette, da cui viene anche certo una nuova teologia, anche perché mi sono abituato oramai, ma è vero che devo stare attento, a usare spiritualità in un'accezione forte, cioè è la base della teologia, no? Semplicemente dire una nuova spiritualità vuol dire una nuova intenzionalità teologica di fondo che poi si specifica nei vari temi, la cristologia, no? La teologia, no? Gli orientali sono su questa linea. Ecco, ma io direi che la spiritualità, quando insomma, uso spiritualità della nuova spiritualità, anzi, quando ho detto all'inizio la teologia della liberazione e oggi soprattutto spiritualità della liberazione, vuol dire quello che hanno rinunciato a fare teologia, no? Ma che è una teologia portata da questa appunto, intenzionalità, no, di base, che è la percezione, nella frase di Monsignor Romero, che ripeto spessissimo, no, che la gloria Dei vivens pauper, no? La gloria di Dio è il povero che vive, cioè il povero che dalla situazione di miseria, di morte, di persecuzione, vive. Secondo punto, cosa vuol dire vive? Ecco, allora vorrei rispondere, cercherei di rispondere all'intervento di Don Monsignor Greci. Ecco, dice passare dalla idolatria del denaro a una idolatria comunque no, del benessere. No. E non ho avuto tempo alla fine per indicare che ecco, questo mondo nuovo non è semplicemente il mondo in cui si starà bene. Beh, intanto vorrei dire che il fatto che ciò che fa sì che il denaro sia idolo, o almeno il segno, il sintomo che quel denaro è idolo, è il fatto che è di pochi che per mantenerlo sono pronti a far morire gli altri. No, questo fa sì, no, che è il sintomo che è l'idolo. L'idolo è il valore supremo, Dio, no? Così supremo che vuol dire per gli altri morte, ma non importa, perché appunto quello è il valore supremo. Quando diventa di tutti, già non c'è più questo elemento. Già il fatto che poi sia idolo per i singoli, quando però è di tutti, diventa un fatto molto più soggettivo e difficile da determinare. Invece lì dove no, cioè i pochi contro i pochi che vivono, i tutti, che, tutti contro la maggioranza, no? Che muoiono nel senso ampio, direi che oggettivamente quello si dimostra idolo, quindi peccato. Secondo, più positivo, alla fine non ho fatto tempo a dire, che la contrapposizione vita di qui, vita di là, apparenza verità, o carcere, liberazione, eccetera, non è del tutto ignorata nella teologia, insomma in questo tipo di spiritualità e teologia, ma riacquista la sua dimensione paolina, e cioè vita secondo la carne, vita secondo lo spirito, che non è la vita di qua, vita di là. Allora l'uomo nuovo, almeno lì dove ne parlano, dove viene tematizzato da cristiani, se ne parla teologicamente, allora, e l'ombre nuovo non è semplicemente l'umanità dove tutti avranno da mangiare e una serie di altri beni, ma dove questa situazione di sufficienza oggettiva sarà il frutto continuo della nuova soggettività, cioè di uomini che vivono secondo lo spirito. Il mondo nuovo non è il mondo dove tutti semplicemente no, avranno la sufficienza, ma è un mondo fraterno, è un mondo di pace, è un mondo eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè è un mondo dove si disposa il soggetto buono, soggetto giusto e il mondo buono. No? Questo cioè il mondo messianico, no? Il mondo messianico. Allora da questo punto di vista ecco non è più direi l'idolo, proprio perché non è lo star bene se non nell'accezione grossa, no? È la giustizia che genera lo shalom, ecco, allora sì. Ma... E una terza cosa sul fatto del valore universale, del valore extra, sì, ma anche al di là degli steccati o comunque delle definizioni confessionali. Qui non mi riferisco ai problemi della canonizzazione, su cui non so, su cui sentiremo dopo il padre, ma io non parlavo dei martiri in quanto canonizzabili, parlavo dei martiri, ecco, di genere. Quindi in questa fenomenologia noi troviamo ecco, elementi in cui certo c'è ragione di dire che questi sono veri martiri cristiani. Perché? Ecco, perché quel morire per la giustizia, che può anche essere fatto senza riferimento a Dio, a Gesù Cristo, eccetera, in loro di fatto nasce, quindi io parlavo proprio dei martiri cristiani, ho sottolineato anche la continuità con il martirio extraconfessionale. Però poi ho detto c'è anche questo specifico, per quel che vale la parola, questo specifico di un riferimento non puramente estrinseco, ma un riferimento proprio motivazionale, concresciuto succhiato con latte materno, no? In questo caso, cioè con latte materno della predicazione, della catechesi, di queste comunità di base, eccetera. Ecco. Per cui il loro impegnarsi fino al pericolo di morte, no? Consapevole, perché rivediamo, non è la morte che casca addosso così all'improvviso perché l'hanno preso, no? Ma se l'avessi saputo forse si sarebbe tirato indietro. No, qui si fanno i conti con l'eventualità, con l'eventualità il cui realismo si sperimenta giorno dopo giorno, con l'eventualità di finire ammazzati o torturati, eccetera. Ecco. Un'eventualità di gente che di fatto è già stata presa, tenuta dentro, magari rilasciata, eccetera, o di gente che vive in clandestinità. Ecco. Quindi dico, è gente che fa i conti con l'eventualità molto concreta di fare quella fine. Allora qui dico la consapevolezza, no, del prezzo, della grazia a caro prezzo, c'è la tematizzazione cristiana, no, che è appunto, ecco, l'ordine di Dio. L'ordine nel senso cui dicevo prima, no? Allora, cioè di realizzare un mondo che sia come Dio lo vuole, ecco, che sia, allora dice, non è l'aldilà, ecco, allora qui sì, certo che entra un po' in gioco una concezione diversa, complessiva, anche teologica forse, no? Cioè che il luogo della realizzazione della volontà di Dio non è più, se vogliamo, del regno, ecco, per usare un termine, no? È già qui. Ma non il qui, ripeto, dove semplicemente si stia tutti bene, ma il qui dove il soggetto giusto, il soggetto obbediente a Dio, costruisce continuamente un mondo secondo Dio. Questo è il qui, non secondo lo Spirito. Non so se poi c'erano altre cose, ma non mi sembra. Ecco, quindi è come dire, non è l'uomo marxista o l'uomo cristiano. Secondo me loro non vogliono costruire né l'uomo marxista né l'uomo cristiano. Vogliono costruire appunto l'uomo fraterno, l'uomo che operi secondo giustizia e ecco, che non uccida l'altro uomo, eccetera. No? Loro questo vogliono costruirlo in nome di Cristo, ma non è che vogliono necessariamente costruire un uomo cristiano, cioè che a sua volta creda in Cristo. Né tantomeno vogliono costruire oggi almeno un uomo marxista, ma questo uomo che è quello, l'uomo universale, qui sì, no? Questo uomo universale nella sua concretezza di uomo individuale, cioè un uomo che disposa, che fa suoi gli interessi, eccetera, di ogni altro uomo con cui. Grazie. Allora l'unica cosa che posso offrire di sollievo a Gongofi potrebbe essere questa, se l'accettate. Invece di far mezz'ora, 5 minuti per rinfrescarsi e poi ascoltiamo la seconda relazione, per andare fuori un po' all'aria. Grazie.